Effetto Mondo. Now it's almost July, and it seems like our wartime president has surrendered, waved the right flag, white flag, and left the battlefield. E buongiorno a Giulia Crivelli. Giulia, ci stiamo abituando, buongiorno, a riconoscere anche la voce di Biden, no? Piano piano. Joe Biden ieri ha fatto uno dei suoi incontri, ormai parte di questa campagna che naturalmente sappiamo ha linee guida molto diverse da quelle di Donald Trump. Lui non aveva la mascherina, ma era distanziato dal poco pubblico che c'era. E è tornato perché poi, come vedremo anche gli altri titoli, sono sugli allarmi lanciati ieri da Anthony Fauci, il virologo della Task Force, che peraltro ieri ha avuto un'audizione in Senato e quindi ha risposto ad una serie di domande e ha detto che addirittura prevede che potrebbero arrivare a 100.000 nuovi contagi al giorno, i contagi appunto negli Stati Uniti. E Biden quindi non poteva non toccare il tema della pandemia e ha detto: bene, il presidente che aveva dichiarato guerra al virus, che si sentiva in guerra con il virus, possiamo dire che ha alzato bandiera bianca. C'è stato poi spazio anche per le domande dal pubblico e devo dire Joe Biden, grande sangue freddo, perché siccome lui si impappina un po' e in passato non è una bellissima cosa per un politico, diciamo. Non è una però... bellissima cosa. E, insomma, non è, lo sappiamo, non è il leader carismatico con la capacità oratoria che aveva Obama o che ha lo stesso Donald Trump. E quindi dal pubblico gli hanno addirittura chiesto, qualche sito lo ha riportato e rilanciato: ma lei è mai stato testato? E lui stava già per rispondere sul test per il tampone. No, intendevo se è mai stato testato sulle sue capacità cognitive. Joe Biden ha detto: no, io credo di non avere alcun problema in quel senso, farò invece tutti i test ovviamente per quanto riguarda il Covid. Quindi insomma la campagna è un po' come se Joe Biden non avesse ancora deciso se usare lo stesso, così scrivono un po' i giornali, lo stesso tipo di aggressività anche verbale di Trump, perché continua a fare appello all'unità, a cercare di, insomma, è come se chiedesse al presidente: cambia tu tono e cerchiamo veramente di combattere insieme questa battaglia che sappiamo sta diventando, non sappiamo ancora se definirla, non lo sa nemmeno Fauci, seconda ondata o onda lunga della prima ondata. Sta di fatto che i contagi negli Stati Uniti aumentano in modo esponenziale praticamente in tutti gli stati, tranne due piccoli stati dell'est, quindi sì. È una situazione preoccupante che ovviamente su tutti i giornali, però non so se secondo me i nostri ascoltatori che sono attentissimi lo ricordano, un mesetto fa c'era stata una copertina dell'Economist dove si diceva Wall Street e Main Street, la differenza tra lo spirito della finanza e quello invece che si respira nelle strade, e Wall Street Journal oggi parla proprio di questo secondo trimestre, quindi quarter lo chiamano negli Stati Uniti, quindi il periodo aprile, maggio, giugno, che è stato per Wall Street il migliore dal 1998, con, tra l'altro sappiamo invece nella realtà, la pandemia che cresceva. Quindi si sottolinea ancora una volta questo gap tra come si comporta la finanza e come invece va l'economia reale. Giulia, la notizia che domina sicuramente la scena internazionale è però quella di Hong Kong, la legge sulla sicurezza. Oggi la cronaca ci parla di migliaia di persone in piazza a protestare e di un'ottantina di arresti, quindi la legge potrebbe già entrare in funzione contro i manifestanti dell'opposizione proprio in queste ore. Cosa hai raccolto? Sì, guarda, dicevo, l'articolo che ti ho citato sul Wall Street Journal in realtà è quella che noi chiamiamo una spalletta, cioè un colonnino sulla prima pagina, ma il titolo vero e proprio è Beijing tightens grip on Hong Kong, cioè Pechino stringe la sua presa su Hong Kong, perché come sappiamo la legge era stata proposta anche al cosiddetto Parlamento di Hong Kong, che peraltro non aveva ancora completamente concluso l'iter di questa legge sulle nuove misure di sicurezza, che poi vuol dire possibilità di arrestare chi protesta, possibilità di processarlo direttamente in Cina e altre piacevolezze. E invece ci ha pensato Pechino, che l'ha passata questa legge, ha comunicato la firma del presidente Xi Jinping così come sorpresa per il mondo, e le reazioni non si fanno attendere, anche perché ieri era una data, anzi oggi è una data molto simbolica. Il 1 luglio del 1997 fu il passaggio ufficiale dell'ex protettorato britannico alla Cina. E sul Wall Street Journal si solleva naturalmente la questione finanziaria. Hong Kong è una delle più importanti borse al mondo, ci sono anche aziende italiane quotate lì. Per farvi un esempio, il gruppo Prada ha scelto anni fa di quotarsi a Hong Kong, Certo. e lo slogan due paesi, ma due sistemi sotto un unico paese, e il Wall Street Journal dice sarà presto che saranno due sistemi finanziari diversi, perché si sapeva che Pechino avrebbe cambiato le regole, e sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito sono arrivate le prime reazioni. Il Regno Unito, e questo lo si legge sui quotidiani britannici di oggi, ha ribadito quell'offerta che era già stata fatta qualche settimana fa di un passaporto britannico in prima battuta a 3 milioni di persone residenti a Hong Kong, e probabilmente in futuro anche a una platea più larga. Dunque, parlato di America e Hong Kong, dove ci porti adesso, Giulia? Ma se vuoi, perché negli Stati Uniti si avvicina il 4 di luglio, l'abbiamo detto anche ieri, grande festa nazionale, perché il 4 luglio del 1776 le allora 13 colonie britanniche si staccarono dalla Gran Bretagna, e è il nucleo da cui poi sono nati gli Stati Uniti, e c'è stata poi, sappiamo, anche la guerra civile. Torna al tema dell'abbattimento delle statue. Donald Trump ha ripetuto in un'intervista che non ammetterà che questi simboli della storia degli Stati Uniti, anche se sono simboli della storia degli Stati Confederati dove c'era la schiavitù, vengano rimossi. E ieri sulla CNN è stato intervistato un documentarista che si è occupato molto di questi temi, Bianco, e in questo brevissimo audio, secondo me, coglie proprio il punto del dibattito, soprattutto negli Stati Uniti. Very important Se vogliamo. for people like me of my complexion to be as quiet as possible and to listen. Che dice? Dice, è molto importante che persone come me, con il mio tipo di pelle, cioè la pelle bianca, devono stare zitti, devono ascoltare. E questo purtroppo non sta tanto succedendo, perché appunto la reazione ufficiale della Casa Bianca è stata quella di inasprire le pene, dicendo che spesso sono semplici atti di vandalismo. Ma torniamo ancora una volta al tema della riflessione che gli Stati Uniti devono fare su questo passato schiavista, tutto sommato ancora così recente. E credo che questo dibattito, tra l'altro, si continua a svolgere anche nel Regno Unito, con il movimento Black Lives Matter, che nel Regno Unito è accusato dai giornali conservatori di aver favorito l'espandersi della pandemia. Però credo che, insomma, debba restare al centro del dibattito, auspicando appunto un dibattito così, di una parte che ascolta le motivazioni, ci si auspica altrettanto pacifiche, di chi sente di aver subito dei soprusi mai riconosciuti. Ecco. Giulia, in questi ultimi 2 minuti che ci rimangono, ti chiederei, Sì. Israele, dove mi sembra di capire che ci sono novità per quanto riguarda il contestato piano di annessioni in Cisgiordania. Sì, sai, anche questo, se vuoi, è un po' legato alla Casa Bianca, perché Donald Trump e i suoi inviati, e Mike Pompeo, che aveva fatto un viaggio lampo in Israele qualche settimana fa, si era molto speso per sostenere il piano di annessione di parte della striscia di Gaza di Netanyahu. Adesso probabilmente Trump ha talmente tanti altri fronti da tenere sotto controllo, che ha un po' dimenticato il suo alleato Netanyahu, e Netanyahu, fiutando un po', insomma, la situazione, ha annunciato, lo scrive Haaretz, che è un quotidiano, diciamo, molto critico con Netanyahu, ma lo scrive anche il Jerusalem Post, anche se non c'è una vera e propria dichiarazione ufficiale, di fatto questo piano di annessione slitta, e forse potrebbe anche essere ridiscusso con l'autorità palestinese, che si è proprio alzata dal tavolo, non ha neanche voluto discutere di questa Certo. decisione unilaterale di Netanyahu. Abbiamo ancora 30 secondi, con cosa ci vuoi lasciare come segnalazione? Beh, se vuoi Brasile, visto che abbiamo parlato di pandemia, mi ha fatto molto impressione il titolo del giornale Folha de São Paulo, dove si dice che ormai per colpa dei licenziamenti legati alla pandemia il numero di disoccupati in Brasile supera quello degli occupati, e questo naturalmente, come in tutti i paesi, all'emergenza sanitaria si somma quella economica. È stato rinnovato il bonus di cui avevamo parlato mesi fa di 600 real, perché forse anche Bolsonaro e il suo governo deve affrontare la realtà. Si tratta di questo, affrontare la realtà e i numeri. Grazie Giulia. Ci sentiamo domani. È tutto per la puntata di oggi, con Valeria Bernardi in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi. Ciao, buona giornata.